Salva Danaio di Deborah Rosciani. Felicitazioni per il tuo arrivo. Questa è certamente la prima lettera che ti viene indirizzata. È il Presidente del Consiglio a scriverti, per porti probabilmente anche la prima domanda della tua vita. Lo sai che la nuova legge finanziaria ti assegna un bonus di 1000 euro? I tuoi genitori potranno riscuoterlo presso questo ufficio postale e troveranno tutte le informazioni necessarie nell'allegato a questa lettera. Ti invio i più affettuosi auguri per una vita lunga, serena, piena di soddisfazioni e di successi, e porgo ai tuoi genitori le più cordiali felicitazioni. Un grosso bacio. La lettera era firmata a Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, ed era stata accolta come una vera e propria buona e inattesa notizia ai tempi della finanziaria 2005-2006. Buongiorno da Deborah Rosciani, intanto benvenuti a Salva Danaio. Ora invece il bonus bebè, nel quale si parlava nella lettera, è fonte di polemiche e soprattutto di timori per le tante famiglie, circa 600.000 che ne avevano beneficiato per i nuovi nati di allora, bambini ormai prossimi a sedersi sui banchi della scuola elementare. 1000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e nel 2006. Questa è l'entità del bonus, un regalo gradito distribuito dal governo con un'unica eccezione: la famiglia richiedente doveva dimostrare un tetto di reddito massimo di 50.000 euro attraverso un modulo di autocertificazione. Passati 6 anni, migliaia di queste famiglie stanno ricevendo una lettera del Ministero dell'Economia che ha tutt'altro tono rispetto a quella che invece all'epoca inviò il Presidente del Consiglio, in cui viene richiesta la restituzione dell'assegno e l'eventuale pagamento di una sanzione amministrativa di altri 3.000 euro che possono moltiplicarsi fino a 25.000. E allora, molte le famiglie che si sono rivolte alle associazioni dei consumatori in questi giorni perché non capiscono bene come cosa devono fare, e molti sono per la verità anche in buona fede perché non ritengono di aver reso dichiarazioni mendaci al fisco all'epoca. Stamattina ne parleremo di tutto questo. Abbiamo con noi anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla famiglia, l'onorevole Carlo Giovanardi, che saluto. Onorevole, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie di essere intervenuto e di essersi anche ridocumentato di nuovo su tutta la faccenda, che per la verità ancora non sta passando molto sui giornali. Devo rendere merito ad un collega della stampa che gli ha dedicato una pagina molto approfondita nei giorni scorsi, ma soprattutto devo rendere merito all'avvocato Maria Stella Anastasi, vicepresidente della Lega Consumatori, che ci ha veramente pregato con molta forza di fare questa trasmissione. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. A Salva Danaio, grazie. Ci ha portato tutte le mail che stanno arrivando all'organizzazione in questi giorni, probabilmente una minima parte. E abbiamo con noi questa mattina anche la collega Valentina Melis delle Sole 24 Ore, che all'epoca invece scrisse molto su questo bonus, sulle modalità di erogazione, su che cosa bisognava fare, molto poco per la verità, per poterlo andare appunto a riscuotere. Buongiorno. E adesso ritorniamo invece a parlare di una situazione completamente opposta, insomma bisogna restituirlo e chissà, poi faremo un calcolo a quante famiglie sta capitando questa situazione. 800 24 00 24, numero verde per renderci se vorrete le vostre testimonianze, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Paolo, buongiorno, il primo ascoltatore che noi abbiamo recuperato, perché Paolo mi ha scritto una mail questa mattina molto presto sapendo che avremmo fatto questa trasmissione. È arrivata anche a lei, Paolo, la lettera? Sì, buongiorno, sono tra i fortunati che hanno ricevuto la raccomandata del Ministero dell'Economia ieri. Ecco, che cosa c'è scritto? Perché io ce l'ho sotto gli occhi. Ma il testo è quello che ha detto lei e soprattutto colpisce il tono, perché è abbastanza intimidatorio, con anche alcune riferimenti a articoli del codice penale. Io ho la fortuna di avere dei fratelli avvocati, per cui non mi sono spaventato più di tanto, però insomma si fa riferimento ad articoli pesanti, a indebite percezioni di erogazione dello Stato, a truffa ai danni dello Stato, e sostanzialmente viene contestata una falsa dichiarazione per l'autocertificazione del reddito inferiore ai 50.000 euro, che nel mio caso ritengo ingiusta. Poi le spiegherò perché. No, ce lo spieghi subito, così magari anche all'onorevole Giovanardi allora chiediamo anche una spiegazione. Sì. Il mio è un problema probabilmente tecnico, è la classica legge scritta male in Italia, perché io ho avuto la fortuna di avere come moglie una bimba, la terza bimba, nel gennaio del 2006. Ho ricevuto la lettera del Presidente del Consiglio pochi mesi dopo, non mi chieda le date perché dovrei andarla a riprendere. Cambia poco, non si preoccupi Paolo. sì. Eravamo in clima preelettorale, mi sembra, per cui la sollecitudine allora era, vabbè, era di rigore. Lasciamo questi aspetti, le lo sa Salvadanaio, non ci interessano. Comunque, come sono andate le cose? Ho ricevuto la lettera, ho controllato le mie dichiarazioni dei redditi, le ultime disponibili, ho verificato che avevo un reddito familiare complessivo, mio e di mia moglie, di 47.000 euro circa, 40. Quindi, tanto per cominciare, lei il senso dell'aggettivo complessivo l'aveva capito? Perché tutto ruota intorno a quello. Sì, ho notato su internet che molti avevano interpretato in maniera un po' conveniente il termine, ma nel mio caso era almeno per quello che mi riguardava, con le ultime dichiarazioni alla mano. Era comunque abbondantemente sotto. Abbondantemente no, però ero sotto di 3-4 mila euro. E se non che mi viene contestato di avere dichiarato il falso, e l'amministrazione che oggi sono riuscito a contattare, anche se il funzionario incaricato della pratica casualmente oggi in ferie, e mi è stato detto che il reddito contestato non è il reddito 2004 disponibile con la dichiarazione unico 2005, quindi l'ultima disponibile alla data della nascita, ma è il reddito 2005 che io ho dichiarato in dichiarazione, essendo lavoratore autonomo, nell'ottobre del 2006, cioè 9 mesi dopo la nascita della bimba, bambina. Che guarda caso arriva a 53.000 euro perché è stato un anno migliore del precedente, per fortuna. Certo. Però ovviamente io non avrei potuto dichiarare a gennaio, febbraio, marzo 2006 un reddito che non avevo ancora calcolato. Allora, per la verità, adesso l'onorevole, l'ho già resa parlamentare questa mattina, l'avvocato Anastasi mi sta facendo vedere la lettera con i dettagli, con i parametri in base ai quali si stabiliva appunto l'erogazione del bonus, e per la verità si parla chiaramente lì di reddito precedente dell'anno precedente all'anno alla nascita, precedente alla bebè. Nascita del certo. Bimbo sì. Però faccio presente che nella lettera, tra l'altro, che invitava ad andare a riscuotere l'assegno presso le poste sì. C'era un termine abbastanza breve, mi sembra di ricordare, entro cui uno doveva recarsi, ed è abbastanza evidente che se a gennaio uno nasce una bimba e a febbraio deve andare a ritirare, diciamo entro marzo, il bonus che arriva, l'ultima delle preoccupazioni è cercare di accelerare i tempi della dichiarazione dei redditi e presentarla con 6 mesi d'anticipo. Ah beh, certo, Paolo, ho capito perfettamente. Paolo, detto questo, lei che cosa fa? Li restituirà questi 1.000 euro oppure intende contestare? Non lo so, adesso li valuterò, certo. Rimane lo sconforto. Guardi, io sono nella fortunata situazione di essere tra quelli a cavallo dei 50.000, e quindi suppongo che ci siano famiglie che sono in situazioni peggiori della mia. Nel mio caso non fa la differenza il 1.000 euro, sì. Oltretutto per la mia generazione, chi ha la fortuna di avere una casa, ereditato una casa in cui abita, non è il reddito che fa la differenza. Rimane lo sconforto di vedere che chi si è comportato correttamente ha dedicato e speso del tempo a documentarsi, a cercare di mettere i dati corretti, perché se probabilmente avesse avuto un reddito di 51.000 euro non l'avrei chiesto, e si trova oggi a dover perdere giornate intere per tabellare. Emotivamente lei, Paolo, è uno resistente, ma effettivamente i toni di questa raccomandata sono un po' agghiaccianti. Allora vado subito al sottosegretario Giovanardi, perché come ha avuto modo di sentire, onorevole, a parte quella di Paolo, abbiamo appunto testimonianze di molte proteste che sono in questo momento rivolte al governo, in particolar modo che all'epoca non avrebbe stabilito con molta chiarezza i parametri appunto per l'ottenimento di questo bonus, ed è molta la preoccupazione per le famiglie che si ritroverebbero a borsare improvvisamente 1.000 euro più forse 3.000 per la sanzione, che potrebbe addirittura moltiplicarsi. Scusi, di più. No, ci dica allora qual è la situazione. No, perché intanto vediamo di ridimensionare un attimo il problema per quello che è. Su 550.000 bambini che sono nati e sulle domande che sono arrivate, che avevano quelle caratteristiche, le contestazioni sono 8.000. 8.000, quindi sono un numero relativamente basso sul monte complessivo di assegni che sono stati mandati, e quasi tutte sono relative al problema del lordo o del netto, perché equivocando e in buona fede, essendo il Parlamento, avendo il Parlamento determinato che questo bonus di 1.000 euro andava solo a famiglie che avessero un reddito complessivo fino a 50.000 euro e non superiore a 50.000 euro, e non superiore, perché il Parlamento ha ritenuto che chi aveva più di 50.000 euro di reddito non fosse beneficiario di questo invio, e alcune famiglie hanno equivocato e forse lì c'era anche la possibilità di un equivoco, considerando 50.000 euro netti e non lordi, che vuol dire lordo 70, 80, 90.000 euro. Allora, lasciando stare il tono burocratico di chi ha mandato via la lettera, sostanzialmente oggi di che cosa si tratta? Che chi risulta aver percepito questo assegno e non poteva percepirlo perché la legge non lo prevedeva, può con l'amministrazione, se invece il diritto l'aveva, fare presente che il diritto l'aveva e quindi dire all'amministrazione: guarda che ti sei sbagliato, i 1.000 euro me li tengo. Se invece le condizioni di legge non ci sono, semplicemente restituire senza interessi, senza interessi, i 1.000 euro dopo 5 anni. Faccio presente che nella normativa vigente siamo passati a un sistema di prestito, adesso chi ha un figlio può chiedere un prestito fino a 5.000 euro garantiti dallo Stato a tasso agevolato, che può restituire in 5 anni, ma li deve restituire in 5 anni pagando gli interessi, interessi che sono ridotti con una convenzione fatta con le banche. Se non riesce a restituire, c'è una garanzia dello Stato che al posto di chi ha avuto il figlio restituisce alle banche. Sono già stati stipulati 20.000 di questi mutui, ma sono mutui con restituzione, quindi sì, sì. Già oggi le famiglie che hanno figli e che chiedono questo prestito lo devono restituire. Conosciamo anche questo strumento, quindi lei mi sta dicendo invece casi, noi 1.000 euro chiediamo, non chiediamo gli interessi. In 8.000 casi, perché risulta che non aveva le condizioni che per legge il Parlamento ha stabilito, si tratta 5 anni dopo di restituire la stessa somma di 5 anni prima senza pagare un euro di interesse. Certo. Allora, onorevole Giovanardi, visto quindi, che lei... Mi sembra che la cosa vada un po' ridimensionata. No, ma certamente, ma guardi... sembra uno scandalo nazionale. No, no, nessuno lo ha messo in discussione, noi riconosciamo anche, la sentirà, lo fa anche l'amica Anastasia, appunto, dell'Associazione dei Consumatori, il principio è assolutamente corretto. Se c'è qualcuno che ci ha provato e ha reso una dichiarazione mendace, è giusto che restituisca. Quello che noi contestiamo è un po' il modo, non so se ha avuto modo, io credo che lei la conosca, onorevole Giovanardi, di vedere la lettera. Qui si tratta, appunto, si intima con molta serietà, con toni molto rudi ai contribuenti che non sono risultati in regola, appunto, di pagare immediatamente, di restituire immediatamente questi 1.000 euro e magari, a prescindere dal fatto che queste famiglie hanno redditi intorno ai 50.000 euro e magari non sono in difficoltà, non è detto che la situazione sia cambiata dal 2006 ad oggi e quindi molte di queste famiglie potrebbero anche trovarsi in difficoltà a restituire seduta stante 1.000 euro. C'è poi tutta la questione. Io posso biasimare certo. Il modo con il quale il funzionario, il dirigente, l'Agenzia delle Entrate ha scritto questa lettera in modi inurbani, se vogliamo, i toni burocratici, però il fatto è che quando c'è un per legge viene stabilito un certo tipo di prescrizione, dopo è un obbligo, se non vuole essere denunciato, lo stesso funzionario di chiedere la restituzione. Lo deve fare, non è che va non bene. C'entra il governo. Senta, ma noi le possiamo... Qui c'entra una legge in vigore e quindi il governo non c'entra nulla. C'entra che l'amministrazione è tenuta a far rispettare le regole. Certo. Poi, ripeto, magari la lettera potevano scriverla in maniera più cortese. Lei dice non l'ho scritta io, l'ha fatta il ministero. Non ho visto. Mancherebbe altro. Va bene. Con tutte le cautele del caso, però, torno a dire, sostanzialmente si traduce in un prestito per 6 anni senza interessi. Vabbè, allora onorevole senatore, la continuo ad attribuire ad un altro ramo del Parlamento, mi scusi, questa mattina va così. No, volevo coinvolgere anche le nostre altre due ospiti per ribadire un po' alcuni termini della questione. E allora, va bene, il carattere dirompente della lettera, lo abbiamo già ribadito. Avvocato Anastasi, quali altre preoccupazioni stanno riguardando i consumatori che si sono rivolti a voi in queste ultime giornate, che nel bel mezzo del mese di luglio, anche così magari stando già a guardare ad agosto il momento per andare a riposo, magari rischiano di veder buttare all'aria le loro ferie perché questi 1.000 euro devono andare a finire da un'altra parte? Ma guardi, una cosa che noi abbiamo notato nelle telefonate, come dire, che ci stanno inondando in questi giorni, perché abbiamo ovviamente attraverso il sito internet dell'associazione www.legaconsumatori.it dato delle indicazioni, nelle telefonate gli utenti cosa ci dicono? Non contestano il merito, cioè dicono: posso avere sbagliato, ci mancherebbe, premesso che, lo ha riconosciuto il sottosegretario, dice forse anche nel momento in cui furono inviate le istruzioni per percepire il bonus non furono proprio chiarissime, proprio perché qualcuno poteva non avere chiaro la differenza tra netto e lordo, e molti sono proprio al borderline, cioè sì, sono al limite. Da 46, abbiamo sentito l'ascoltatore di prima, 46 l'anno prima, quindi forse lui non era ancora in grado di stabilire che l'anno successivo aveva sforato i 50.000. Quindi in qualche modo gli utenti cosa lamentano? Lamentano delle scarse e non precisissime informazioni quando il bonus fu erogato. Sicuramente il tono della lettera adesso, che sì certo formalmente sono quelle le sanzioni previste, però ci sembrano oggettivamente anche sproporzionate, esatto, alla vicenda. Magari capire come scattano e quando addirittura rischiano di diventare 25.000 euro, perché esatto, ci sembra effettivamente una moltiplicazione dei panni dei pesci. Una cosa che noi abbiamo precisato anche agli utenti è che in alcuni casi potrebbe anche essere prescritta questa richiesta fatta dal Ministero. Perché se fossero trascorsi 5 anni mm-hmm. dal momento della riscossione, potrebbe esserci anche questo aspetto. Sì. Qualcuno ci ha mandato della documentazione e l'abbiamo esaminata. Le dico che qualche ascoltatore ci sta scrivendo anche su questo. Quali sono i toni di prescrizione? Ecco, i termini sono 5 anni appunto dal momento della riscossione, dell'assegno, e in ogni caso, ripeto, quello che lamentano gli utenti è proprio questo. Quindi che non solo ci sia questa sproporzione evidente tra l'errore, perché di errore può essersi trattato in tutta onestà, io non credo che un cittadino volutamente, falsamente abbia fatto questa dichiarazione per percepire una somma che in tutta onestà è veramente minima. Ma al di là di questo c'è comunque l'aspetto legato al fatto che qualcuno meno, come dire, meno accorto dell'ascoltatore che ci ha chiamato prima, si è spaventato di fronte a questa lettera e quindi magari pensa già di rivolgersi a un avvocato perché crede di avere necessità di doversi difendere da qualche cosa. Leggo una riga della lettera, ecco, si comunica che quanto sopra esposto sarà fatta apposita segnalazione alla Procura della Repubblica. Ecco, quindi visto che insomma le persone ci sono sembrate tutte molto... una cosa, qualcuno ieri al telefono ci ha detto di essere andato, perché in effetti nella lettera si dice di ripresentarsi presso i locali della Ragioneria Centrale Generale dello Stato, nelle sedi territoriali, ci ha detto di essere andato, e quando era lì praticamente alla fine era stato fatto un verbale nel quale in realtà l'utente ammetteva tutte queste scorrettezze, tutte queste infamie. Ecco, e voi avete consigliato al momento di non firmare. Non ci fermiamo, avvocato Anastasi, adesso andiamo alla prima pausa, poi ritorniamo a Salvadanaio anche con la nostra Valentina Melis, che da ieri sera, da quando l'ho chiamata per avvisarla della questione, si è attaccata invece al telefono dell'Agenzia delle Entrate, appunto per capire anche lì se hanno avuto modo già di affrontare la questione e con che termini. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Quest'oggi stiamo affrontando una questione un po' vecchia nel tempo. Il bonus bebè, quello erogato ad almeno 550.000 famiglie italiane, secondo le notizie e i dati che ci ha fornito proprio questa mattina il senatore Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ma oggi lo Stato, il Ministero dell'Economia, chiede la restituzione di 8.000 bonus bebè ad 8.000 nuclei familiari, perché il Ministero appunto ritiene che all'epoca non ci fossero i requisiti per queste famiglie reddituali per avere appunto il diritto all'erogazione di questo bonus. 1.000 euro, in questi giorni nelle case di molte famiglie è arrivata questa lettera da Tonio Imporudi del Ministero dell'Economia, nella quale si attribuisce questa indebita riscossione del bonus bebè a queste famiglie. Quindi il Ministero dice: abbiamo fatto degli accertamenti, avete dichiarato il falso in sostanza all'epoca, per cui adesso restituite tutto quanto. Nel contesto di questa lettera si parla anche di possibili sanzioni amministrative che possono arrivare a cifre enormi, comunque si parte da 3.000 euro. Adesso vedremo in base a che principio viene erogata, viene irrorata una sanzione di questo tipo, e soprattutto quando c'è il rischio appunto che questa effettivamente debba essere pagata. La collega del Sole 24 Ore, Valentina Melis. Valentina, all'epoca abbiamo fatto un sacco di trasmissioni sul tema, così come poi successivamente ne abbiamo fatte tante su un altro bonus, la social card e quant'altro. Allora, che idea ti si è fatta di questa questione? Cosa ti hanno detto l'Agenzia delle Entrate? Allora, innanzitutto sì, abbiamo parlato molto di questa misura perché fu introdotto nella finanziaria del 2006 un vero e proprio pacchetto famiglia, no? Che comprendeva quindi il bonus figli, comprendeva delle agevolazioni per iscrivere i figli all'asilo nido e tante misure. Questa fu molto popolare perché era già stata sperimentata oltre un anno prima ed era stata una misura così ritenuta un incentivo alla natalità. Allora, c'è da precisare una cosa, che la lettera, qui l'avvocato ci può essere di conforto, dice che il pagamento dell'importo a titolo di sanzione amministrativa, quindi 3.000 euro, dovrà essere effettuato solo dopo che il giudice penale si sarà pronunciato in merito alla punibilità della falsa autocertificazione con l'articolo, secondo l'articolo 316 ter del codice penale. Mi viene da pensare quindi che allora non c'è dubbio sul fatto che chi non aveva quei requisiti di reddito, e per reddito complessivo si intende sempre il reddito lordo. Li debba restituire i 1.000 euro. Quindi su questo anche l'Agenzia delle Entrate non riserva alcun dubbio. L'importo a titolo di sanzione amministrativa, probabilmente su questo si può ragionare con l'amministrazione, adesso chiediamo magari al sottosegretario Giovanardi se su questo si può intervenire, anche perché è un caso analogo, anche se differente nelle modalità. Mi viene in mente il bonus incapienti, che era stato previsto dal precedente governo, 150 euro per i pensionati che l'INPS aveva erogato automaticamente nella pensione, alcuni non se ne erano neanche accorti, chi non era particolarmente informato. Poi coloro i quali avevano ricevuto delle comunicazioni erronee dall'INPS, perché era stato valutato male il reddito, in maniera scorretta il reddito, per alcuni problemi credo legati alla tredicesima, ora non ricordo bene, ricevettero una lettera di questo tipo dicendo appunto bisogna restituire il bonus. In quel caso, ma solo nel caso in cui la comunicazione ricevuta dall'INPS era relativa ad un errore di calcolo, il pensionato è stato tenuto a restituire il bonus, ma solo il bonus, cioè senza sanzioni e senza interessi. Quindi, come teoricamente in questo caso, mi sembra di capire. Questo caso è diverso perché c'è di mezzo l'autocertificazione, ovvero il contribuente non ha ricevuto automaticamente la somma, ma ha dovuto compilare questo modello dicendo lui stesso che ne aveva diritto. Certo. Questo è una differenza grossa. La discriminante. Qualche utente infatti ci ha fatto notare, effettivamente quello che diceva la signora Melis è corretto, quindi non è automatica la sanzione dei 3.000 euro, non scatta in automatico. Se l'utente controllando e facendo le verifiche si accorge che effettivamente non rientrava in quei requisiti che correttamente sono stati detti adesso, dovrà restituire esclusivamente i 1.000 euro. La sanzione dei 3.000 euro scatterebbe solamente nell'eventualità in cui venisse accertata la falsità dell'autocertificazione. Ecco. Scusi avvocato Anastasi, tra l'altro, per chi sta ricevendo le lettere in questi giorni, entro quale termine deve pagare e restituire 1.000? Sono 30 giorni dal ricevimento della lettera. Quello che però qualcuno ci ha fatto notare dagli utenti, ci dicevano che effettivamente in un caso simile, che è l'autocertificazione che si fa quando si paga il ticket sanitario per le prestazioni sanitarie, qualcuno si è ritrovato con una condanna penale, perché poi la denuncia è stata fatta in automatico proprio per il discorso della falsità dell'autocertificazione. Ecco perché sono così preoccupati gli utenti. Quindi io mi sento, la nostra associazione ha già scritto al ministro delle finanze, dell'economia, forse e probabilmente abbiamo già interpellato, il mio presidente ha già interpellato anche il sottosegretario Giovanardi, gli chiediamo proprio di farsi, come dire, portavoce di questa richiesta, e cioè di innanzitutto avere, come dire, una moratoria su questa vicenda e chiarire prima con l'utente, con le famiglie, quello che è accaduto realmente, perché abbiamo capito che evidentemente tutti sono un po' stati tratti in inganno e di situazioni di dolo, probabilmente ce ne sono, ma saranno veramente marginali. Ma sicuramente questo aspetto, quindi, della segnalazione alla Procura della Repubblica, perché in qualche modo se il procedimento partisse in automatico, quella potrebbe scattare. Certo, sarebbe e quindi un bel si peso. Mette in moto un meccanismo che costringe la famiglia a munirsi di un legale. Adesso, quindi, per restituire 1.000 euro io mi trovo costretto a farmi seguire da un avvocato che probabilmente mi chiede altrettanto. Allora, adesso faccio intervenire il senatore, un'altra precisazione di Valentina Melis. Sì, all'Agenzia delle Entrate questa mattina non risultano denunce. Sì. Di questo genere. Stamattina. Quindi certo. Possiamo confidare nel fatto che appunto non siano state ancora effettuate e speriamo che non. Però ci deve essere un impegno a non effettuare queste denunce, perché ribadisco, se si dovesse agire in automatico a termini di legge, queste potrebbero anche arrivare in via teorica. Benissimo. Quindi giustamente le famiglie sono preoccupate. Ci sono anche un paio di ascoltatori pronti ad intervenire, ma credo che la prima replica del senatore Giovanardi gliela dobbiamo. Ma io direi che con un po' di buon senso, allora, si può stabilire che chi senza sua colpa o perché è equivocato ha ricevuto 1.000 euro a casa che non doveva avere, semplicemente lo considererà, torna a dire, un prestito senza interessi, ne ha goduto per 5 anni come se fosse andato a chiedere 1.000 euro in banca, e dopo 5 anni o 6 lo restituisce i 1.000 euro che aveva ricevuto allora. La sanzione penale, anche qui con un po' di buon senso, non credo che le procure italiane con l'obbligatorietà dell'azione penale si mettono ad aprire 8.000 procedimenti nei confronti di 8.000 persone la cui buona fede si suppone fin dall'inizio. O può anche darsi che ci sia qualcuno che aveva 400.000 euro di reddito e abbia fatto un'autocertificazione falsa. Può darsi anche che ci siano casi di questo genere. L'Italia è un paese dove tutto è possibile, però con un po' di buon senso mi sembra che nel momento in cui avviene la restituzione la cosa si chiude, anche per qualsiasi procura occhiuta o che voglia in qualche modo applicare l'obbligatorietà dell'azione penale in maniera, secondo me, eccessiva in questo caso. Certo, il problema può nascere da chi. Però lei sa che tra il buon senso poi è quello che succede nella concretezza. Che cosa servirebbe? Chi ha convinto di aver ragione va, scrive all'amministrazione e dice: guardate, vi sbagliate voi, perché io confermo che il mio reddito lordo era inferiore, ve lo dimostro, e quindi non pago neanche i 1.000 euro. Certo che se poi il mancato pagamento, la mancata restituzione e la contestazione sfocia poi a livello penale in una condanna, perché si dimostra che i 1.000 euro in effetti uno li ha avuti in maniera truffaldina, allora poi la sanzione dei 3.000 euro può arrivare. Però sono casi limite, sì. Perché mi sembra che con un po' di buon senso la cosa si risolve semplicemente attraverso la restituzione. Adesso bisogna anche tenere conto che ci sono migliaia di famiglie che, avendo avuto un reddito superiore ai 50.000 lordi e avendo interpretato correttamente la norma, i 1.000 euro non li hanno avuti. Allora, io ascolterei adesso anche altri casi da parte degli ascoltatori, qualcuno che ha percepito, che ha appunto preso il bonus, ma non aveva ben capito che questo era riservato solamente a cittadini comunitari, vero avvocato Anastasi? Sì. Per cui abbiamo Aziz dalla provincia di Modena. Aziz, buongiorno. Qui non abbiamo qua la questione reddituale in ballo, ma ben altro. Aziz, sì. Buongiorno, io non è che non avevo capito il discorso, io l'avevo capito, però ho compilato la lettera che mi è arrivata dichiarando che non sono italiano e non sono dall'Unione Europea e il reddito entravo, comunque ero dentro come reddito. Io ho dichiarato che non sono italiano, non sono, comunque ce l'ho la fotocopia che mi ha lasciato la posta. Poi le ho detto alla posta, questi soldi, se posso prenderli va bene, altrimenti se vuoi questa lettera non va bene, io non li prendo e la finiamo qua. Lei mi ha detto no, questi soldi sono di tua figlia, te li prendi. Io le ho prese, giustamente non dovevo rifiutarle. Certo, non è che lei ha detto sono di origine o di cittadinanza. Un anno fa, non mi ricordo, ero in ferie, mi è arrivata una lettera dalla prefettura di Modena e era una raccomandata, me l'ha presa mia cognata, che io non c'ero. E quando sono arrivato era già passato il tempo, sono andato a un avvocato e tutto mi fa, ormai tutto passato, doveva arrivare entro 10 giorni o 8 giorni, non mi ricordo da quanto hai preso la raccomandata, e comunque l'ha lasciata perdere tutta. E io quell'ora ero extracomunitario, adesso sono italiano, cittadino italiano, però io ho dichiarato nella lettera la sanzione che mi è arrivata per il dichiarato falso. Ma quindi Aziz, mi faccia capire, la contestazione in questi giorni, quella di cui stiamo parlando adesso, le è arrivata in questi giorni? Cioè le chiedono la restituzione? No, mi è arrivato 2 anni fa. Ma come 2 anni fa? Quel, sì, per il dichiarato falso, sì, perché ero è già partito per lui. Per lui, probabilmente perché... è già partito il procedimento nel suo caso, perché nel suo caso dici tu hai dichiarato il falso, in realtà lui dice no, perché io ho detto di non essere un cittadino comunitario. Quindi in qualche modo anche in caso del nostro ascoltatore, il ministro Giovannardi fa riferimento al buonsenso, io apprezzo questa cosa, però il vero problema, lui lo ha detto anche prima, dice però il funzionario deve far partire, perché se no a sua volta è soggetto a sanzioni. È questo che ci preoccupa, cioè il buonsenso, sì, ok, però noi chiediamo effettivamente una moratoria, sottosegretario, perché che ci sia veramente, lei si faccia portavoce di questa cosa presso il suo collega ministro dell'economia, perché davvero il rischio è che giustamente il funzionario a sua volta, preoccupato di ricevere magari a sua volta un procedimento amministrativo perché non svolge correttamente il suo dovere, si innesca un meccanismo perverso nei confronti degli utenti. Sì, senatore, ho la pubblicità e i suggerimenti, no, perché in viaggio poi andare a rispondere proprio delle interrogazioni. Lasciatemi dire l'ultima cosa. Sì, va bene. Sono fatti specie diverse. Il regolamento dice chiaramente che spetta solo ai cittadini italiani o comunitari. Se poi qualcuno in qualche sindacato ha sviato questo signore dicendo no, lei lo chieda pure, perché anche agli esseri comunitari è giusto che vadano, ciò non toglie che quando lui ha autocertificato e ha domandato, ha fatto una cosa che non poteva assolutamente fare. Quindi bisogna che questo signore qua i 1.000 euro li restituisca, perché non gli spettavano, e poi sono convinto che il magistrato, sicuramente, immagino e auspico, che se è vero, perché bisogna controllare, che lui da qualche parte ha scritto che li chiedeva dicendo che era comunitario, no, però ha scritto che invece era extracomunitario, gli posso dire che non c'era il dolo, e quindi non. Però ogni fattispecie ha una sua logica, perché se no confondiamo casi che sono assolutamente diversi fra di loro. Tant'è vero che questo signore dice che il problema gli è nato 2 anni fa, nel momento in cui è stato rilevato che ha autocertificato un modulo in cui diceva di essere italiano, o comunque di essere comunitario, di avere diritto a una prestazione, e da un'altra parte ha scritto che invece... Senatore, lui ha detto... Non lo posso vedere io di qua, non lo posso. Però lui ha detto di essere... lui ha detto, e ha detto che può anche dimostrarlo con della documentazione scritta, aveva detto al funzionario della posta che non era cittadino comunitario, e ha chiesto più volte, posso prendere lo stesso? Il funzionario ha detto, sì, guarda, tu falla, perché tanto te la possiamo andare lo stesso. Scusi, lo sa che però tutti dicono sempre così, tutte le volte che c'è un qualcosa che esorbita o c'è di regolare, è evidente che tutti dicono ma io non avevo capito, ma mi avevano detto male, ma tutte cose che potrà far valere nella sede idonea. Va bene, detto questo, senatore, a parte questo caso di Aziz, possiamo strappare la promessa di mettersi allo studio di una moratoria? Ma moratoria che cosa vuol dire, mi scusi? Avvocato Anastasi, cosa chiedete? Cosa di dare ancora moratoria? Più tempo alle famiglie per euro, dimostrare? Io penso che se uno ha 1.000 euro da pagare subito non ce li abbia, anche se aveva un reddito allora superiore, posso concordare con gli uffici una rateizzazione. Sì, sottosegretario, però, è corretto. La moratoria vuol dire che chi ha avuto i 1.000 euro che non doveva avere rispetto a famiglie che non avendo fatto la domanda non li hanno avuti e che dopo 6 anni li deve restituire senza interessi, e cioè che dire tutti in cavalleria perché i soldi li ha presi e li tiene, questo non è possibile. No, le associazioni non intendono questo, ci mancherebbe. Se le somme sono state indebitamente percepite vanno restituite, ci mancherebbe. Quello che noi chiediamo è di dare delle disposizioni alle ragionerie territoriali, innanzitutto di avere un po' più di tempo per chiarire questi aspetti, visto che stiamo andando verso il periodo feriale, quindi qualcuno che ha ricevuto potrebbe aver avuto il recapito della raccomandata ma essere magari in questo periodo in ferie, quindi rischia di non rispettare i 30 giorni che vengono dati nella raccomandata, e quindi che per questioni formali rischia di essere poi sanzionato, e quindi che il Ministero possa dare delle disposizioni agli uffici territoriali dell'amministrazione delle finanze in questi termini, quindi di una maggiore elasticità, di una maggiore possibilità di termini maggiori per le famiglie. Guardi, per chiarire la loro posizione. Nero su bianco, l'amministrazione mi dice nero su bianco, io devo andare a rispondere adesso a un'interrogazione alla Camera, che l'amministrazione sta valutando in sede di contraddittorio tutte le memorie e osservazioni da parte degli interessati per contemperare l'esigenza del recupero della prestazione indebita con le esigenze personali dei percipienti. Quindi si mettono a disposizione per valutare caso per caso, credo che più di così non possono fare. Va bene. Senatore, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. Allora, pochi minuti di tempo prima di concludere la nostra trasmissione. L'avvocata Anastasi è molto arrabbiata, adesso però non possiamo più di nuovo costituire appunto un contraddittorio con il senatore Giovanardi, che comunque si è difeso molto bene. Detto questo, non è piaciuta la battuta che ha fatto relativamente al caso del nostro Aziz di Modena, che dice: io sono andato alla posta, ho specificato che ero extracomunitario, la posta mi ha detto prendilo tranquillamente. Il senatore Giovanardi ha detto: vabbè, ma se questo si era fatto consigliare male presso un patronato, presso un CAF, non so che cosa, e allora che colpa ne abbiamo noi? Lì è il funzionario in questione che doveva fare più correttamente il suo lavoro. Detto questo, avvocato Anastasi, sì, lei dice: insomma, nessun CAF si è fatto intermediario. No, non c'è stata intermediazione che ci risulti. Vabbè, tutti noi conosciamo quello che hanno fatto sul territorio, magari qualcuno l'ha anche fatto. Però, in qualche modo, la cosa era molto diretta, cioè tramite l'ufficio postale. Quindi, in realtà, come dire, non c'è stato. Anzi, noi diciamo, proprio se fossero andati presso i centri di assistenza fiscale, gli sarebbe stato meglio precisato quali erano i requisiti precisi. E invece, proprio perché non c'è stata questa intermediazione, probabilmente si è creato anche l'equivoco tra il netto, il lordo, eccetera. Quindi anche questo elemento ci sembra. Però ecco, quello che veramente noi ci sentiamo di dire: noi non pretendiamo che chi ha percepito indebitamente li possa trattenere, questo assolutamente. Quello che noi chiediamo all'amministrazione delle finanze è innanzitutto di dare un po' più di tempo, perché dare una indicazione agli uffici territoriali della Ragioneria dello Stato, perché è ovvio che, ripeto, se la Ragioneria segue la norma in maniera pedissequa, rischiamo veramente di trovarci con una serie di procedimenti. Con non dico 8.000 procedimenti penali, ma qualche migliaio magari. O viene data un'indicazione dal Ministero dove si dice, come diceva il sottosegretario, caso per caso, certo, però caso per caso abbiamo saputo anche che chi è andato a dare queste spiegazioni alla fine si stava ritrovando con un verbale da sottoscrivere nel quale invece ammetteva di aver reso dichiarazioni mendaci. Allora, se il senatore è andato, sono sicura che i suoi collaboratori stanno continuando a sentire la trasmissione, per cui continuiamo a pungolarli in questo modo, e qualche precisazione in ogni caso da Roma deve arrivare su tutta la questione. Valentina, tra l'altro, sulla questione degli extracomunitari ho trovato anche delle sentenze della Cassazione, mi pare che precisano ulteriormente il contorno di queste vicende. Certo, perché ci furono molti stranieri che, avendo ricevuto la lettera, perché lì la lettera fu inviata in maniera generalizzata, un po' come successe con la carta acquisti, per informare delle nuove norme ci fu un cospicuo numero di lettere che non davano però di per sé il diritto a ricevere la prestazione, perché in effetti proprio la legge prevede che il bonus bebè di quell'anno fosse riservato a cittadini italiani o comunitari. Lo tanto diceva, è vero, no, che molti, ti ricordi, molti pensionati andarono a ritirare la carta acquisti e poi andavano al supermercato convinti che fosse caricata, non era carica perché in realtà era stato appurato nel frattempo che non ne avevano diritto. La Cassazione si è espressa perché ci sono stati moltissimi casi di stranieri, lo ricorderete, soprattutto nella zona di Varese, qui in Lombardia è successo in molte province, di stranieri che avevano indebitamente ricevuto il bonus, ma che avevano dichiarato alla posta di essere extracomunitari, e proprio perché non c'è stata alcuna intermediazione l'ufficio postale ha preso l'autocertificazione e poi il bonus è stato consegnato. Ma la Cassazione ha stabilito che nel caso in particolare di una mamma rumena, ricordo una pronuncia del 2008, che in sostanza ha riconosciuto che questa donna potesse essere assolta perché l'imputata, scriveva la Cassazione, ha agito in assenza di dolo, cioè mai ha nascosto di essere extracomunitaria, e in questo caso ha deciso che non fosse imputabile. Inoltre aveva ricevuto la comunicazione, e magari quando non c'è una consapevolezza o un possesso di informazioni tecniche, ricevere la lettera già fa ritenere, fa presumere alla famiglia di essere titolare. Evidentemente tu conosci qual è la mia situazione reddituale, qual è la mia condizione anche di cittadino o meno comunitario, extracomunitario, pertanto se mi hai mandato la lettera perché riconosci come amministrazione pubblica che io ho il diritto a questo denaro. Pochi minuti ancora, rapidissimo. Massimo da Treviso, buongiorno, poi leggo anche gli altri messaggi, ci state tempestando, io allegramente li giro tutti a Maria Stella Anastasi dopo, così se la vede lei. Massimo, buongiorno, rapido. Sì, buongiorno, mi sentite bene? Sì, benissimo. Ecco, volevo dire una cosa, forse avete mancato di dare anche un altro accento su un altro aspetto. Avete mai ricevuto una pubblicità ingannevole a casa vostra che parla di aver vinto un premio di qualsiasi tipo? Ci abbiamo fatto l'apertura della trasmissione, abbiamo letto la lettera che Berlusconi inviava in quel periodo, Massimo, ci mancherebbe. No, infatti, io parlo anche in generale, cioè questa è una classica pubblicità ingannevole. Chiamiamola col nome come va chiamato, era campagna elettorale in quel periodo, non era proprio un volantino pubblicitario. Sì, diciamo, visto che ci sono anche degli effetti, di implicazioni anche sul lavoro, perché se poi ci scatta la denuncia penale, e qui si parla, mi pare di aver capito, 600.000 famiglie che rischiano anche in solido sul lavoro, no? Massimo, ecco, quindi, noi speriamo che al senatore Giovanardi questo messaggio sia passato forte e chiaro. Ci si è molto incaponita l'avvocato Anastasi su questo aspetto, quindi grazie per la sua sollecitazione. Speriamo che questi ultimi minuti di trasmissione i suoi collaboratori glielo riportino. Un ascoltatore, Luigi, che ci ha scritto almeno 10 messaggi all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, dice: io ho provato a fissare un appuntamento con la tesoreria, la prima data disponibile è il 29 settembre, altro che solo 8.000 famiglie, forse saranno di più, forse di meno. Detto questo, lui intanto dice: in attesa di avere l'appuntamento con la tesoreria, che faccio? Pago, non pago? È per questo che c'è bisogno della moratoria, per capire bene appunto come poter dimostrare la buona fede o la reale condizione reddituale di quel momento. Un'altra ascoltatrice chiede: io ho fatto l'errore di considerare 50.000 netti e non l'ordine in assoluta buona fede, altrimenti non l'avrei mai richiesti. Ci scrive Cristiano: la norma parlava di reddito complessivo e lì è difficile poter dire che non si trattasse dell'ordo. Avvocato, sì, 30 secondi per concludere. Cosa, sul sito internet della nostra associazione www.legaconsumatori.it abbiamo messo due facsimili di lettere che gli utenti possono spedire nell'immediato, quindi se non altro per tamponare, interrompere i termini e tamponare comunque la situazione. Ribadisco, la cosa importante che noi vorremmo, le famiglie si sentono vessate da queste vicende, vorremmo evitare alle famiglie, la dottoressa Melis citava la Cassazione, ecco, vorremmo evitare alle famiglie di finire in mano agli avvocati, di dover costringere le famiglie a rivolgersi a un legale e finire fino alla Corte di Cassazione per accertare che questa cosa è nata sicuramente da un equivoco. Allora, grazie ad entrambe. Forse la prossima settimana sarà necessario ritornarci. Vediamo, insomma, magari per tranquillizzare le famiglie che adesso sono un po' preoccupate. Grazie all'avvocato Anastasia, Valentina grazie Melis, per essere grazie state con noi. Anche al senatore Giovanardi, che ha lasciato la trasmissione un po' prima. Noi ritorniamo domani. Buona giornata.